La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. L'articolo 37 riguarda ancora il tema del lavoro e lo riguarda tutelando le categorie più deboli, donne e minori. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore, ma inoltre non c'è solo la parità, ma c'è anche che le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento all'essenziale funzione familiare, per assicurare a madre e bambino una speciale e adeguata protezione. Il Costituente sapeva bene che la condizione della donna lavoratrice era una condizione del tutto deteriore. Del resto, ci trovavamo in una situazione sociale e familiare basata sulla famiglia patriarcale, in cui la donna lavoratrice non aveva assolutamente una piena dignità. Ricordiamo bene che erano vigenti leggi sul divieto di matrimonio per le lavoratrici ed erano vigenti leggi che impedivano la gravidanza e la filiazione. E sono leggi che sono rimaste in vigore fino all'inizio degli anni 60, quando con importanti interventi della Corte Costituzionale e poi del legislatore si sono rimossi questi divieti che il Costituente esplicitamente aveva cercato già di inibire in sé. Quindi l'articolo 37 tutela in maniera particolare la donna proprio per consentirle di lavorare in maniera paritaria, ma anche in maniera compatibile con gli impegni familiari. La stessa tutela viene riconosciuta ai minori, perché innanzitutto il Costituente si pone il problema del limite minimo di età per il lavoro salariato, che serve ad evitare tutti i fenomeni di lavoratori bambini che allora in Italia erano ancora frequenti. Del resto sappiamo bene come invece oggi in altre zone del mondo abbiamo ancora fenomeni veramente impressionanti di bambini lavoratori. Questo in Italia non è possibile anche grazie alla Costituzione. Il Costituente sa che il lavoro delle donne e dei minori deve essere specificamente tutelato e quindi aggiunge un ulteriore comma, perché la Repubblica tutela con speciali norme anche il lavoro dei minori, dando diritto alla parità retributiva. Per cui l'articolo 37 potremmo dire completa il disegno sul lavoro, nel senso che l'articolo 35 lo ha tutelato in ogni sua forma, l'articolo 36 declina i diritti fondamentali del lavoratore, l'articolo 37 riconosce speciale tutela a due categorie sicuramente deboli nel mondo del lavoro, le donne e i minori. Pur essendo trascorsi 70 anni dall'entrata in vigore dell'articolo 37 della Costituzione, sappiamo bene come ci sia ancora tanto da fare per tutelare i minori e soprattutto le donne in ambito lavorativo. Penso a tutte le provvidenze per rendere compatibili il lavoro della donna con il suo ruolo familiare. Ovviamente questa compatibilità era già riconosciuta dal Costituente, ma va applicata mediante la concreta declinazione di tutta una serie di misure e provvidenze, riposi, permessi, astensioni, asili nido, tutto senza detrimento delle condizioni lavorative. Ovviamente questi obiettivi non sono obiettivi che si raggiungono in maniera immediata e puntuale, ma sono obiettivi che possono essere raggiunti solo spalmati nel tempo. Per questa ragione c'è ancora da fare e ancora si sta facendo, per tutelare adeguatamente la posizione della donna nel lavoro e a specchio nella famiglia.